Eccoci! Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Ciao ragazzi, chiuso l'esperienza con l'Expo, siamo tornati in redazione Milano via Monterosa. Giorgio De Luca, Giovanni Melchiori, Gianmarco Ferronato, stiamo buongiorno ragazzi. Stiamo per tuffarci di testa in un altro weekend mica male, quello di Napoli-Juventus come sapete, di Inter-Fiorentina, altra partita della verità, ma anche un weekend con Formula 1 e Moto Mondiale con grandissime attese. Con i mondiali di ciclismo e quelli di rugby che continuano per l'Italia contro il Canada domani, insomma un sacco di roba. Adesso vorrei convocare chi invece vorrebbe oggi mandare via Allegri dalla Juventus e Garcia dalla Roma. Ciao Pierluigi Pardo. Come va? L'ho toccata pianissimo, eh. Non so, sì, riconvochiamo. Riconvochiamo, è un dibattito. Penso siano anche parecchi, eh. Argomento di discussione, scusa Pierluigi. Argomento, non ne avete parlato ieri sera a Tiki-Tac, credo di sì. Sì, ne abbiamo parlato. Cosa ne è uscito? Ma ne è uscito che siamo all'inizio della stagione, ancora c'è molto tempo davanti per tutti e due, però siamo già all'allarme rosso, su questo non ci sono grandi discussioni, quindi c'è una pausa in arrivo fra due settimane, e se la crisi di queste due squadre, che fra l'altro nel frattempo hanno anche la partita di Champions in mezzo, dovesse aggravarsi, io credo che non si possa escludere nulla. Sì. Io ho letto la pagella oggi, Sconcerti sul Corriere della Sera fa le pagelle degli allenatori, l'avrei letta anche tu, no? Immagino. Sì, durissima, sì, sì. Quella di Garcia, voto 5, non cresce più. Alla squadra migliore, ma la manda a 20 all'ora. Il suo gioco era una sorpresa continua, un'aggressione prolungata. Ora è un tiki-taka ai limiti dell'area avversaria. Così emargina Dzeko e rende Salah una scheggia solitaria. La Roma si spezza a 20 metri dalla porta e dietro non è una roccia, risente della lentezza di De Rossi e Keita. Garcia sembra incerto sul nuovo, lascia che il resto del gioco schiacci l'attacco. Questo è il giudizio. C'è neanche un altro duro su Allegri, che però ha parlato già alla vigilia della partita, della sfida con il Napoli, che girerà un sacco di cose, io credo. Allegri ha parlato in maniera piuttosto chiara, sentiamone subito una battuta. L'equilibrio deve essere la nostra forza, deve essere la nostra forza, perché dopo alla fine si passa dalla squadra che è tornata dopo Manchester, dopo Genoa, una squadra di coglioni dopo la partita col Frosinone, l'allenatore più scarso di tutti, e io sono l'allenatore che ho delle qualità quando vince e quando perde, perché nel calcio ci sono tante variabili. Qui non si tratta di essere fenomeni o coglioni, come dice Allegri, la parola corretta è equilibrio, ma l'equilibrio deve trovarlo sul campo, perché questa squadra non ha nessun tipo di equilibrio in questo momento, è sclerotica non solo come risultati ma anche come modo di proporsi, Pierluigi. Sì, io credo che in generale in questo momento siamo ovviamente all'inizio, siamo, quello che dice Allegri è verissimo, fra l'altro io l'ho incontrato dopo Manchester, abbiamo parlato per 20 secondi, non di più, ma insomma, della pazienza, dell'aspettare, che è fondamentale nella costruzione di un grande progetto. È chiaro pure che la Juve viene da anni di trionfi, quindi tutto questo fa notizia. Già questo è un mondo che viaggia velocissimo, dove il calcio è liquido, come ben sai, quindi figuriamoci per una squadra che ha dominato gli ultimi campionati, che si trova dopo 5 giornate a 5 punti in classifica senza aver mai vinto in casa con Udinese, Chievo e Frosinone. Insomma, non è cattiveria dei giornalisti, è un dato oggettivo ed è normale, e Allegri conosce benissimo le regole di questo gioco perché è uno degli allenatori più apprezzati, e quindi penso che anche lui sappia benissimo che il momento è imbarazzante. Sì. Detto questo, secondo me ci sono ancora i margini per uscirne. Sì, anche perché normalmente la forza della Juventus è quella di essere, di sapersi chiudere al suo interno, società compresa, nei momenti di difficoltà, e di saper medicare tutte queste ferite. Io sono curioso di sapere, poi lo faremo, perché abbiamo appuntamento con un collega ben noto di Torino che ci spiegherà che sta succedendo adesso nello spogliatoio e anche nelle stanze dei bottoni della Juventus. Intanto sai, ma Pierluigi, c'è Moratti di nuovo innamorato, perché insomma l'amore è cieco. Moratti dice che il bel gioco c'è, i risultati pure. Non è vero che l'Inter gioca male, dichiarazioni di stamattina. Ma l'amore è importante, ragazzi. Sentite Icardi. La paternità? A me non è che mi è cambiato molto, perché già con i tre bambini era una cosa che ero abituato. Però poi quando è nata Francesca è stata una cosa diversa, però come ti ho detto non mi è cambiato molto la vita, ero già abituato. Icardi è il signor Icardi innamorato. Ma ricordo questa intervista, sì. Fatta io ieri. No, sì, ma guarda, io ti dico, adesso ho passato con Icardi un paio di pomeriggi per la presentazione di un popolare videogioco, dove io faccio la telecronaca e lui fa ovviamente il testimonial assieme a Leo Messi. E devo dirti la verità che poi, almeno a vederlo così, è molto diverso, no? dallo stereotipo. Infatti a un certo punto gliel'ho anche chiesto, dallo stereotipo un po' aggressivo, un po' arrogante, che lui stesso comunque si è contribuito a costruire perché certo. È uno che in queste situazioni qui evidentemente ci ha sguazzato molto, però poi a vederlo così sembra veramente uno tutto casa e chiesa, casa e banda, casa e bambini, e poi proprio un pischello. La cosa impressionante a vederlo vicino è che veramente potrebbe essere, non dico mio figlio, ma mio fratello minore. Ma questa è una sensazione che abbiamo avuto quasi tutti noi giornalisti, no? Cioè, li vediamo in televisione, li commentiamo, li vediamo allo stadio, poi quando ci parliamo, quando ci troviamo faccia avanti, ma ragazzi, questo qui è veramente un bambinetto. E questa sensazione adesso, senza fare niente di eroico, ma insomma senza fare chissà quali discorsi, questa sensazione un po' di fragilità, no? Noi ce la dobbiamo sempre ricordare, perché è ovvio che stiamo parlando di ragazzi strafortunati che spesso sono anche abbastanza distaccati dai problemi grossi della società, che vivono in una campana di vetro. Però è anche vero che comunque al netto di tutto sono ragazzi, sono veramente ragazzi, nel senso tecnico. Poi alcune uscite di Icardi a me non sono piaciute, perché secondo me certe provocazioni se le poteva risparmiare, però forse fanno anche parte del desiderio di autoaffermazione che poi in campo vediamo, perché questo è un giocatore che in campo ha la personalità, è uno che ha sempre segnato gol pesanti. Vero. Fin dall'inizio, fin dai tempi della Samp, ha segnato nel derby, ha segnato con la Juve, cioè ha segnato sempre in grandi partite. L'anno scorso c'è stato anche l'elemento numerico, perché ha vinto. Adesso mi sembra stia limando anche i difetti tattici che aveva, perché mi sembra stia imparando a muoversi meglio con la squadra. Ci fermiamo per il traffico. C'è già Luca da Viareggio, 80024 0024, arriverà anche Giovanni Galli per parlare di Fiorentina, perché continua a dirci: ma Fiorentina non ne parlate mai. Lo faremo subito. Però il pubblico è un po' moscetto. Tutti convocati. Convocati. Ecco che torniamo. 800240024, numero verde. Luca da Viareggio, buongiorno. Buongiorno Pierluigi, grazie per la conversazione. Tutto alla grande, ragazzi. Allora, visto che hai convocato il pro Allegri contro Allegri, eccomi qua, io sono super pro Allegri. Sì. Sì, ci vuole, cioè dopo quello che ha fatto l'altro anno, almeno fino a maggio a credito illimitato. Sì. Poi immagini che avevano confusioni. Ma io sono d'accordo. Io vorrei che la pensassero tutti, ma io non sono perché, d'accordo. Non perché abbia. Perché ha un senso. Allora, vi dico una cosa: a me Allegri sta molto simpatico. Nel senso che mi sembra proprio una persona. Mi piace, non è che siamo amici, però mi piace, mi dà l'idea di essere veramente una bella persona. Poi magari mi sbaglio, non lo so, però mi ha sempre dato questa sensazione, e quindi mi sta naturalmente simpatico e mi piace il modo che ha di sdrammatizzare il calcio. E credo però che quello che tu dici, al di là delle simpatie e delle antipatie, sia oggettivo. Io credo che sia assurdo tutte le volte che la Juve fa qualcosa di buono dire che è la prosecuzione del lavoro di Conte, e quando fa qualcosa di sbagliato che invece sbaglia Allegri. Dai, mi sembra che l'anno scorso Allegri aveva un compito difficilissimo, perché Conte ha fatto un lavoro pazzesco, quindi certo. Riuscire a fare meglio di Conte era quasi impossibile, e lui ci è riuscito, facendo una stagione straordinaria, che si è fermata a 20 minuti dalla fine di una partita persa, lo dico per l'ennesima volta, a testa altissima contro la squadra più forte di tutte. Tu sai che ho sempre detto che è stata la stagione della consacrazione per Massimiliano Allegri, che pure già uno scudetto l'aveva vinto, che comunque la sua carriera l'aveva già cominciata in un certo modo e in un grande club come il Milan. Giovanni Galli, buongiorno. Buongiorno a tutti. Restiamo in Toscana. Come stai, Giovanni? Bene, molto bene. Molto bene. Tu signor Galli, signor Galli, premium t'aspetta, la redazione è vuota senza Galli, Giovanni Galli, Giovanni Galli, ascensore umano. Tu sei l'orgoglio, tu sei l'orgoglio del calcio pisano. Senti, però ieri sera io ti ho chiesto di ballare la canzone Frosinone con la Satta, un l'hai fatto, Paolo? Non l'ho fatto. Non l'ho fatto. Me la sono legata. Senti, Giovanni. Giovanni, tu sai come i tifosi viola sono un po' permalosi. Questo è indiscutibile, no? E continuiamo a ricevere rimproveri. Ieri non avete parlato della Fiorentina, non parlate mai della Fiorentina? Va bene, e facciamolo, anche perché è il momento, no? Domenica c'è la prima partita della verità, seconda in classifica. Una squadra anche curiosa, se vogliamo, con un allenatore che conosciamo bene come giocatore, ma che sta, insomma, mescolando le carte in maniera anche diversa rispetto a Montella. Sì. Assolutamente, è anche vero che intanto arrivi su una squadra che aveva già un impianto, no, ben preciso già da un paio d'anni. Lui è arrivato, dei giocatori importanti sono andati via, dei giocatori importanti sono arrivati, ed è logico che il suo concetto di calcio purtroppo non ha potuto dal primo giorno di ritiro portarlo avanti, o perlomeno tutte le volte quando ci è arrivato un giocatore nuovo in difesa, quando è arrivato due giocatori nuovi sugli esterni, poi è arrivato il centrocampista nuovo, poi è arrivato un attaccante esterno, poi è arrivata la prima punta, per cui è sempre stato per lui, no, un dover ricominciare da zero. Però è anche vero che fino ad oggi la Fiorentina è entusiasmato per i punti che ha conquistato fino ad oggi, non ha entusiasmato sotto il piano del gioco. Sono d'accordo. Al di fuori forse della prima partita, quella col Milan, dove la Fiorentina fece una buonissima partita. Da quella partita però, ad esempio, un giocatore che fu determinante, Ilicic, non ha più giocato per infortunio. Devi inserire Suarez, ecco, in contesto. Questo è strano, se mi permetti, perché tutti durante l'estate dicevamo uno dei migliori colpi del mercato, forse il migliore, dicevano i tifosi viola, è Suarez che sta stabilmente in panchina. Sta facendo fatica. Suona strano. Sta facendo fatica. Appunto, c'è però da capire che cosa gli sta chiedendo l'allenatore, se gli chiede le stesse cose che faceva l'Atletico oppure se gli chiede magari di fare qualche cosa di diverso. Detto questo, insomma, vuol dire fare i risultati della Fiorentina. Hai visto, la Fiorentina ha vinto a Carpi, ha sofferto, sì, però il Napoli ci ha vinto 3 giorni dopo. Sì. Si gioca male, cioè, io allora sposo concettualmente, no, l'intervista di Mancini quando dice e giocano tutti male, allora se nel giocare tutti male e si fa 3 punti è bene prendersi 3 punti, no? Giusto, come concetto è giusto, certo. Condivisibile, è anche vero, e lui stesso lo ha ripetuto, dice però bisogna giocare bene per vincere i campionati. Allora bisogna, e la Fiorentina, Giovanni, non è detto. Nel senso, ma che io sono sempre dell'idea che se te giochi bene, ma te certo, giochi ma bene, logico, poi dopo hai, cioè, pensa se l'Inter giocasse bene con quegli interpreti che ha. Sì, ma infatti secondo me il motivo vero della pericolosità per tutte le altre dell'Inter è che l'Inter ha fatto 5 vittorie. E ancora c'è la sensazione che ci sia un potenziale inespresso, nel senso che assolutamente la gran parte, se mi permetti, arrivo a dirti che se l'Inter crescerà da quella che abbiamo visto prima, insomma, difficilmente lo scudetto le sfuggirà. Se invece l'Inter non crescerà, ci può anche stare, ovviamente, il potenziale ce l'ha, poi alla fine questo margine di ritardo che è pesante per tutte le altre, secondo me è ancora recuperabile, perché comunque sia il Napoli ha fatto delle prestazioni abbaglianti, la Roma ha una forza enorme, la Juve si diverte. Quindi secondo me ricordati una cosa, che 2 stagioni fa la Roma ha vinto le prime 10. Appunto, sì, poi però non ha vinto il suo scudetto. Però Giovanni, la però Roma c'erano le altre che no, forte, per dire, no, si sta parlando di numeri, certo, no? Certo. Ne ha 25. Lì la Roma all'epoca addirittura arrivò a 10 vittorie consecutive e non riuscì a vincere lo scudetto, per cui credo che oggi questo è un dice, Giovanni, sì. Pesa di più perché non è soltanto che ha vinto, che il fatto che ha punteggio pieno l'Inter, è che le altre hanno steccato tutte. Cioè la Roma due anni fa ha vinto le prime 10, ma la Juve era a meno 5, il sì. Napoli era a meno 5, cioè non c'era questo divario. Dietro non trovano continuità. Non riescono a trovare continuità. Non sono tanti 15 punti dell'Inter che sono un dato oggettivo, sono i 5 punti della Juve, sono i 6 punti del Napoli. Sì, aspetta, allora facciamo così, risentiamoci fra 5 domeniche, perché te fai riferimento giustamente alla Roma che aveva fatto 30 punti e le altre ne avevano 25. Adesso io ti dico, fra 5 partite l'Inter ne avrà 30, cioè avrà fatto il filotto anche l'Inter, o le altre avranno recuperato? Può darsi che si torni ad essere con un divario uguale, no? Voglio dire, con 5 punti, per cui il campionato si riapre. Cioè, oggi effettivamente non è che noi si può dire che il Napoli, dopo aver fatto due partite straordinarie, ci sta che può steccare contro il Carpi. Quello che non ci sta, ma soprattutto la riflessione, prima vi sentivo che parlavate di Allegri, no, della Juventus e tutto il resto. La Juventus purtroppo non è più la stessa Juventus. Manchester, è inutile che Agnelli dica io voglio la mala Juventus di Manchester, che abbia la stessa fame di... hanno la stessa fame i giocatori. Il problema è un altro. Il problema è che a Manchester hanno trovato una squadra che li ha attaccati e la Juventus, che ha una grande disciplina tattica, ha fatto le coperture necessarie, certo. E quando ripartiva gli faceva male. Certo. Il problema è che la Juventus deve in Italia attaccare continuamente e qualche volta si scopre, e nello scoprirsi prende il fianco all'avversario. Ricordatevi che ci sono state due parate fantastiche di Gigi Buffon a Manchester. Per sempre, per due ripartenze che la Juventus aveva preso. Se ve lo ricordate, due ripartenze clamorose, quella di Sterling. Se non metti a posto la Juventus, che una caratteristica tipica delle squadre a fine corsa, a fine ciclo, devo dire che io non so se la Juve a fine ciclo, anzi probabilmente lo sta riaprendo perché comunque ha comprato giovani di livello, però penso per esempio al Milan del 2007, no? Che era una squadra fragile in campionato, lontanissima dalla vetta, un brutto girone di Champions League, poi ha vinto la Champions. Cioè una caratteristica secondo me delle ex grandi squadre che hanno ancora la mentalità vincente ma che non hanno più la stessa energia di prima è svegliarsi nelle grandi partite. Sì, questa, certo, cosa l'abbiamo visto spessissimo e la Juve ce l'ha dimostrata a Manchester. Il problema è la normalità, il problema sono le 50 partite della stagione, certo, ma per la normalità devi avere dei cardini che in questo momento la Juventus non ha. Io ringrazio Giovanni Galli. Grazie, no, Giovanni. Posso fare dimmi. Una considerazione veloce? Sì. Guarda che delle volte bisogna anche essere capaci proprio di leggere, no, che cosa una squadra ti può dare e che cosa ti ha dato e che cosa non ti può più dare. Hai fatto giustamente riferimento a quel Milan che era a fine corsa e che vinse la Champions e tutti furono riconfermati per 2 o 3 anni e il Milan da lì in poi non ha più vinto niente. La Juventus probabilmente sono stati bravi, o non lo so, magari ce lo dirà il tempo, probabilmente sono stati bravi a leggere che quella squadra che è arrivata alla finale di Champions l'anno scorso, se fossero ripartiti con quella squadra probabilmente non avrebbero ottenuto gli stessi obiettivi. Io sono d'accordissimo. E allora hanno fatto una scelta drastica. E l'hanno fatta nel momento giusto. E l'hanno fatta nel momento giusto, secondo me, con il credito di 4 scudetti e di una finale di Champions League appena disputata. Giovanni, grazie. Grazie davvero, ci sentiamo prestissimo, magari anche prima delle prossime 5 partite. Andiamo con la borsa, torniamo subito. Ecco, a proposito di quello che hai detto prima in radio, tu hai detto che in Italia... La radio poi si cazzeggia, eh. No, sì. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Che dire, arrieccici. Tutti convocati. Partiamo naturalmente con Pierluigi Pardo e con Cesare Dalla Venna e Carlo Datterni. Cesare, buongiorno. Buongiorno. E volevo dire una cosa semplicissima. Io sono romanista, al di là del fatto che la squadra comunque è un po' un accatastamento di grossi giocatori, ma ha dei ha dei punti deboli, ha pochi marcatori, ha troppi doppioni, ma a parte questo, la cosa che mi preoccupa è l'ambiente, che è veramente delirante a Roma. Io sono di Ravenna, infatti mi piacerebbe proporre alla squadra di venire ad allenarsi qua da noi, che è una città tranquilla, serena, cioè, isoliamoli, abbiamo una vita, isoliamoli, una bella idea. Questa è una gran bella idea. Sì, non so se stare a Roma, perché io veramente vengo da Roma, sono stato a Roma 3 giorni fa, non è possibile, radio su radio, ore su ore, ma come si fa? Cioè, è chiaro che voglio dire, ogni cosa viene... C'era nelle orecchie, e sentieri luminosi da seguire, poi trasferire la Roma al campo di allenamento di Ravenna mi sembra un'idea un po' improbabile, no? È improbabile, ma è interessante. Allora, io premetto che amo le radio romane, anche perché ci ho lavorato, ho collaborato, e fra l'altro buona parte dei telecronisti, dei giornalisti sportivi italiani viene da lì, quindi anche dal punto di vista proprio della scuola per chi fa questo mestiere, le radio romane sono veramente una grande palestra, e ci sono ragazzi bravissimi, ma veramente io proprio ho un sacco di amici, ed è un tratto bellissimo, cioè vedendolo da un punto di vista culturale, letterario, sociale, sociologico, adesso mi allargo un po', è una cosa molto bella e anche molto divertente. Però è pesante. È chiaro che tutto questo amore, che tutto questo interesse, che tutta questa passione, che tutta questa in certi momenti rischia di diventare un po' un problema, nel senso che è più semplice, ci sono ambienti più semplici, ci sono piazze più semplici, e credo che non sia un caso che gli scudetti la Roma li ha vinti quando ha avuto in panchina degli allenatori stantoni, sì, degli allenatori indiscutibili, e anche capaci di isolare la squadra, di farsi carico delle pressioni, come ha fatto Capello. Capello faceva l'ufficio stampa, la gestione dell'allenatore. Lidl era comunque, a parte che erano altri tempi, perché insomma eravamo all'inizio delle radio romane, c'era il mitico in campo con Romellazio, con Lamberto Giorgi, insomma, però erano altri tempi, e comunque Lidl era un fantone, era un totem pure lui, quindi questo che dice l'ascoltatore è verissimo, e secondo me l'idea di trasferirsi a Ravenna o la Lazio, quando ci sono le partite importanti, va a Norcia, esce dalla capitale, perché comunque, ripeto, perché poi comunque è te li trovi sotto casa, perché comunque te li trovi al centro d'allenamento, i tifosi, ma al di là delle radio è la pressione di tutto l'ambiente, no? Te li ritrovi tutto, a contestare, guarda, perché sennò poi si rischia, e invece io lo penso veramente, è tutto in assoluta, estrema, completa buona fede, cioè è almeno per quella che è la mia esperienza, cioè non c'è una persona, non c'è un anchorman delle radio romane, per esempio della Roma, che non sia romanista doc, che non soffra per la Roma, però è ovvio che cioè comunque se per 24 ore su 24 parlano di te dalla mattina alla sera, qualsiasi lavoro tu faccia un minimo di pressione, certo, poi incontri quello che ti dice ho sentito che hai fatto questo, ho sentito che quell'altro ha fatto quell'altro, indubbiamente vivi sotto una continua pressione. Intanto sotto pressione è anche il bilancio dell'Inter, perché è stato licenziato stamattina con un passivo da oltre 90 milioni di euro, così il bilancio dell'Inter. Carlo Terni, buongiorno. Salve, innanzitutto grazie per la convocazione e complimenti per la trasmissione. A lei, dica. Juventino da sempre, quest'anno l'ho anche seguita molto direttamente. Volevo sottoporre a voi due riflessioni, due spunti. Uno, vedo un certo calo di tensione, forse un certo imborghesimento da parte di alcuni elementi, da l'attenzione sul calcio d'angolo, anche all'atteggiamento di qualcuno, di Posturaro. Senta, Carlo, posso mi perdoni, la interrompo un attimo perché sta parlando Garcia, volevo rubare una battuta dalla televisione. Ripeto che ci sarà il modo di giocare che ci porterà alla vittoria. Prendo l'esempio della Sampdoria e quella del Frosinone. Abbiamo giocato molto, molto, molto, molto meglio alla Sampdoria e abbiamo perso. E invece a Frosinone abbiamo giocato male e abbiamo vinto. Ma il calcio è così, ma la penso sempre lo stesso. Se giochiamo bene abbiamo ovviamente sul lungo termine molto più chance di prendere 3 punti ogni volta. Vespasiani, Roma TV. Buongiorno mister. Buongiorno. Volevo chiederle, andando a guardare la media punti, Garcia ha una media punti straordinaria, non solo in casa ma anche in trasferta, una media punti che hanno avuto gli allenatori più prestigiosi che questa squadra abbia avuto. Eppure, soprattutto in questo momento, finisce molto nell'occhio del ciclone, viene criticato per qualsiasi scelta, per molte scelte. Volevo sapere come gestisce questo momento anche a livello personale. Ma quello che è stato fatto è passato, anche se era un buon lavoro. Adesso dobbiamo fare almeno ancora un buon lavoro che ci porta a avere dei risultati. È ovvio che è ancora l'inizio della stagione, ma anche ovvio che, come l'ho detto, i due ultimi risultati non sono buoni. E dobbiamo guardare avanti e io ovviamente, come i giocatori, essere concentrati sulla cosa che conta, il campo e la partita di domani. È l'unica cosa che mi preoccupa, le altre cose per me non sono importanti. Così Garcia dunque. Carlo da Terni chiude il discorso, grazie. Anche il caso di concentrazione in certi elementi e di Sturaro, che avevano fatto una grossa seconda parte di stagione, tutti portano palla e non si sa dove, ma soprattutto un altro elemento, è un dato di fatto che le strategie, la campagna acquisti li fa la società, questo è stato anche uno degli elementi di contrasto con Conte. Secondo me si vede anche quest'anno comprati tanti giocatori, alcuni di questi Allegri o non li vede o li vede molto poco. Anche il discorso del trequartista, no? È stato fatto alla fine quasi come per accontentare l'allenatore e togliergli degli alibi. Allegri poi si è sempre professato un aziendalista e quindi forse vedo quest'anno questo problema, che credo che ce lo porteremo tutto l'anno. Non lo so, adesso ne parliamo, facciamo così, sentiamo il traffico e poi torniamo a parlare con calma di Juventus e a sentire anche altre due dichiarazioni di stamattina di Allegri. Battaglia, andiamo da Nando San Vito, Nando! Tutti convocati. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli, scoprila su pedemontana.com. Vi presenta... convocati. La pressione è tanto che sia domani una sfida dentro o fuori, e non lo è, che abbiamo una settimana importante perché abbiamo tre partite, Napoli prima della sosta, Napoli, Siviglia e Bologna, quindi è una settimana molto importante dove, come ci saranno altre dopo la sosta, per arrivare ai risultati bisogna passare attraverso la prestazione, perché io non ho mai visto vincere una squadra un campionato o arrivare in fondo alla finale di Champions giocando male. E dopo alla fine i risultati sono quelli che contano e quelli che rimangono. Se noi non l'abbiamo fatti fino ad ora è perché abbiamo lasciato qualcosa per strada e bisogna cercare di fare qualcosa in più per non lasciarne. Questo era Allegri. Allora, il tema dell'ascoltatore proposto prima dall'ascoltatore prima del traffico è interessante. La sensazione per Luigi che io ho, non so se la condividi, è che comunque ci sia qualcosa di strano intorno alla squadra, all'interno forse dei rapporti tra la società e l'allenatore. C'è qualcosa di non chiaro o da chiarire, qualche malumore, qualche crepa ci sia. Forse è il caso di che questi elementi si arrivino a compattarsi, a ricompattarsi. Ma a me non sembra. No, dico, non hai questa sensazione. Mi sembra che ci siano le classiche turbolenze di un brutto inizio di stagione. Però, francamente, insomma, non dimentichiamoci il punto di partenza. Il punto di partenza è che la Juve l'anno scorso ha fatto la migliore stagione della sua storia recente. Quindi non... e l'ha fatta con Massimiliano Allegri e l'ha fatta con questa società, non lo so, io ho la sensazione che la Juve... Sia solo una questione di campo? Secondo me sì, la Juve si è incartata sul trequartista, si è incartata nella seconda metà del mercato, perché all'inizio ha fatto tutte le cose che doveva fare, addirittura in anticipo, eccetera, eccetera. E poi ha dovuto prendere atto di alcune partenze, e probabilmente ha sottovalutato le altre o ha sottovalutato la possibilità di calare, ha lasciato partire Llorente a parametro zero per gratitudine, non è riuscito a prendere Draxler e a questo aggiungiamo la miriade di infortuni che hanno tenuto fuori adesso, due sicuri titolari del centrocampo come Khedira e Marchisio, esatto. Che adesso ci sia poi un po' di turbolenza, un po' di fastidio e qualche rapporto teso, questo è abbastanza normale per una vista la situazione, ecco, questo mi sento di dire. Cioè fisiologico e non patologico, tu dici? Disturbo fisiologico dovuto all'assenza dei risultati e non a qualche rapporto. Secondo me sì, cioè faccio fatica a disegnare disegnare scenari. No, ma poi insomma, in tutte le migliori famiglie si può litigare e fare la pace. Non ma sto sì, dicendo ma non è, che non ci c'è deve stato, arrivare. Cioè, io, da quello che mi risulta, non c'è stato. Allora, mentre sulla Roma, per dirti, io credo che un po' di perplessità su Garcia, sul rinnovo di Garcia o comunque sul fatto di riaccordargli la fiducia ci fosse. Sì. E qualcosa secondo me di fondo c'era già in estate. Sulla Juve secondo me era uno scenario proprio serenissimo. Poi è chiaro che fai 5 punti nelle prime 5 partite, pareggi col Frosinone, perdi con l'Udinese, pareggi col Chievo, insomma è ovvio che, no, che qualcosa non va, ma è normale, cioè sarebbe paradossale, sarebbe preoccupante se non fosse così. Quindi in questo momento secondo me qualche rapporto teso c'è, ma mi sembra più la conseguenza dei risultati piuttosto che la causa. Quindi fisiologico, come si diceva. Carmine Reggio Calabria, buongiorno. Buongiorno, lei al signor Pardo. Senta, io volevo intervenire sulla Roma dicendo questo. Io ho 43 anni e sono un esperto di Roma perché la seguo dall'anno del secondo scudetto. Allora, io valutando un po' questi anni, quando la Roma fa un anno a grande livello, al massimo fa il secondo, ma poi si ferma, non riesce a dare continuità. E questo è, diciamo, è un handicap. L'altro handicap è che Garcia quest'anno ha un signor centravanti che è Dzeko, però Garcia non riesce a giocare col centravanti in aria. Cioè lui gioca sempre col falso 9 e questo è un limite suo. Lo ha dimostrato il primo anno l'anno scorso e anche lo sta dimostrando quest'anno. Io dico una cosa, da tifoso della Roma, io penso che quest'anno sarà un'annata molto sofferente. La Roma arriverà tra il settimo e il decimo posto. Settimo, decimo, sì. Troppa roba. Verrà ma eliminata al primo turno di Champions e non farà neanche l'Europa League. Vabbè, e al primo turno di Coppa Italia. Questo è pessimismo. Io dico solo una cosa, mi faccia finire. Un'ulteriore ipotesi. Meteorite su Trigoria e l'invasione delle cavallette. Esatto. L'invasione delle cavallette. No, mi sembra tanta roba. Sul fatto che ciclicamente la Roma una grande stagione, poi massimo due, poi tre cala. Questa squadra è stata progressivamente l'anno scorso. Bravo, ma è stata progressivamente rinforzata. Cioè, mi sembra che si sia arrivati alla massima espressione di questo ciclo. Come squadra. Secondo me, dietro ci sono delle incognite, anche perché non dimentichiamoci che Castan non sta rientrando come si sarebbe aspettato. E Castan è un giocatore fondamentale nella Roma, lo è stato finché è stato bene, assolutamente. Ha bisogno ovviamente di un po' di tempo dopo quello che ha avuto, nessuno per carità gli mette fretta, però è un dato. Per quanto riguarda gli esterni, non è che stiano arrivate delle soluzioni così clamorose. Digne è discreto, Maicon è un giocatore che quello che doveva dare di eccezionale l'ha dato due anni fa, l'anno scorso già non l'ha dato più, insomma. Ci sono un po' di, secondo me, di crepette qua e là. C'è un giocatore come Strootman che ormai combatte ancora e che quindi in questo momento diamo per perso già da due stagioni. E davanti c'è una enorme, clamorosa quantità di talento che deve trovare però una sua esplosione. Dzeko ha fatto un gol fino a questo momento, poi ha giocato è partito dalla panchina col Sassuolo e sai le polemiche che ci sono state. Insomma, mi sembra che ci sia parecchio lavoro. Poi comunque chi ha visto Samp Roma sa anche benissimo che certi risultati sì, per quella squadra che sapeva chiudersi, ti ricordi, e ripartire in maniera fulminea, che sapeva chiudersi come un pugno e poi riaprirsi in maniera fulminea, non si è più vista da due anni, e francamente io capisco, cioè, il punto di vista di chi dice che forse stanno venendo fuori dei limiti dell'allenatore è un punto di vista che capisco, che rispetto, cioè che secondo me Non so ancora dirti se sono completamente d'accordo, però sì. da prendere in valutazione, materiale da prendere in valutazione. Non mi sembra una critica, da prendere in considerazione. Mentre quella su Allegri, francamente, mi sembra una cosa proprio prematura. Perché comunque siamo alla quinta giornata e veniamo da una stagione come quella scorsa. Su Garcia e sulla difficoltà di crescita e di evoluzione di un bravo allenatore come Garcia, che il primo anno ha sorpreso tutti, qualche dubbio comincia a avercelo. Ciao Pierino, sentiamo domani. No, domani non è sabato. Domani è sabato. Che qua la dipendiamo dipendenza, però domani ci riposiamo. Domani ci riposiamo domenica dalle 5 alle 7 col signor Capuano pure. Esatto, il signor Capuano. Ciao Pierino, ciao. A dopo. Grazie, buon appetito. Tutti convocati. Lunedì 28 settembre alle 9 torna Mix 24 con i faccia a faccia, le inchieste e i gialli della storia di Giovanni Minoli. Dentro la notizia di Mario Secchi, i salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori e Franco Schipani e tante novità per l'unico programma di Radiovisione. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Radio 24 e il Sole 24 Ore aprono un'ulteriore finestra sul mondo dell'attualità economico-finanziaria nel primo editoriale multimediale di informazione, in onda da lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Radio 24. La passione si sente. Il segnale orario vi è offerto da... Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Si ricomincia. Tutti convocati. Si ricomincia, finalmente andiamo di corsa, anche perché abbiamo in linea un grande ospite, ma prima Paolo da Milano, che è in attesa da un sacco di tempo. Paolo, buongiorno. Grazie, buongiorno, grazie per la convocazione. A proposito della situazione della Juve, volevo fare un paio di considerazioni per una richiesta simpatica a Pardo, sempre se non è già scappato. No, è scappato. Ah, è scappato, sì. Va bene, sarà per la prossima volta. Niente. Sì. Io volevo dire che non sono molto sorpreso della situazione della Juventus, anche perché sì, qualche punticino in più me lo aspettavo, sinceramente. Però secondo me quando si vince e si perde c'è sempre un perché. E secondo me si paga la confusione che c'è stata prima nella testa di Marotta e di chi ha fatto il mercato, e adesso anche nella testa un po' di Allegri. Si sono spesi quasi più di 100 milioni di euro, io non vedo un top player e ne sono andati via tre. Siamo quasi a ottobre e non si sa come gioca la Juve, quindi non è che c'è molto da sorprendersi a mio avviso, secondo me. Relativamente. Quindi, però questa è la mia, ovvio, sì, è la mia opinione, sì, però no, secondo me capisco, ma... un giocatore come Vidal non è stato sostituito, perché Khedira non c'entra nulla con Vidal. Dybala 40 milioni di euro e Mandzukic insieme, per pensare che avevamo un giocatore come Tevez, insomma si pagano, sì, certe, Paolo, però, lo so, però è inutile guardare indietro, la storia di Pirlo fisiologicamente era finita, quindi ha fatto benissimo a cercare altri lidi. Quella di Tevez è stata una scelta personale dichiarata prima e poi avallata dalla società. Io la penso come Giovanni Galli, cioè la società, e l'ho detto da quest'estate, ha fatto benissimo a rifondarsi, a ricostruirsi in questo momento e dopo aver raggiunto il massimo livello possibile, cioè scudetto e finale di Champions League. Adesso c'è un chiaro problema di ricostruzione della squadra. Non dimentichiamo che Marchisio, che è stato un giocatore importantissimo l'anno scorso, ancora più di Vidal, è stato fuori fin qui dall'inizio della stagione, che dire non si è mai visto. Non credo sia stata tanta confusione nella testa di Marotta, tant'è vero che gli affari più importanti sono stati conclusi all'inizio e poi sono arrivati buoni ultimi, come hanno fatto tanti altri club, Cuadrado ed Hernanez, a completare la rosa. Voglio parlare però di rugby, del mondiale che ci aspetta al secondo atto. Vi faccio sentire subito le voci di Brunel e Minto e poi ne parliamo. Due piloni che abbiamo cambiato, di due altri sono sulla panchina, cerchiamo di lavorare a quattro piloni con una mischia che sarà particolare, la mischia del Canada. Non so se faranno come la settimana scorsa, ma sfidano di maniera un po' particolare questo punto tecnico, e dietro due giocatori che tornano di infortuna, che hanno più di esperienza che i giovani che hanno giocato la settimana scorsa, che mettiamo sul campo subito. Il Canada è un'ottima squadra, sicuramente ha un modo di giocare particolare in alcune fasi di gioco, come in touch per esempio non salta in difesa, è molto attento magari sulle zone vicino alle rack eccetera, e comunque sia ha dei tre quarti veramente molto forti, un ottimo gioco da mischia. Un saluto, un fuori classe del rugby, e ora del microfono per Sky come Diego Dominguez. Ciao Diego, grazie. Ciao, buongiorno. Ciao, ciao. C'è anche Giacomo Bagnasco. Ciao Jack. Ciao. Ascolta, io parto con una domanda a Dominguez, che è una domanda generale. Diego, perché l'Italia non riesce più a crescere? Io l'ultima crescita dell'Italia sul campo l'ho vista con Berbizier, poi abbiamo passato Mallet, adesso Brunel, stiamo facendo un mondiale che è onestamente difficilissimo, con la Francia è andata come ci si immaginava grosso modo, ora c'è il Canada domani, battere l'Irlanda mi sembra abbastanza un sogno. Sì, sogno sì, l'Irlanda pure domani sarà difficilissimo contro il Canada. Vedo una partita tirata con il Canada che si giocherà tutto, sai, qua tutte le posizioni, no? Non solo la prima e la seconda che passano i quarti, ma anche la terza, tu devi finire il terzo per non giocare la prossima qualificazione in Giappone. Spero che tutti capiscano della importanza di ogni vittoria in questa Coppa del Mondo, forse qualcuno l'ha capito ancora, ma è molto molto importante vincere e finire. Se non riesci a passare nei quarti, finire nel terzo posto, che questo ti permette di non giocare la prossima qualificazione. Certo. Se ti ritrovi quarto, la giochi e poi non sai come va a finire. Tu sai che tutte le qualificazioni in tutti gli sport sono durissime. Ti metti in gioco tutto. Allora io consiglierei di lasciare veramente la vita, dare oltre quello che hai per i giocatori che entrano in campo domani e portare a casa la vittoria. Ma perché non riusciamo più a crescere? Non riusciamo più a crescere perché da quando sono già 2 anni a questa parte che questo nuovo Consiglio federale è arrivato a sulle ultime elezioni, il nuovo Consiglio federale che è arrivato a prendere il comando del Movimento Italiano, si sono addormentati, nessuno ha pensato più, vivono delle glorie e le glorie non ti fanno andare avanti, le glorie ti rinforzano una base, ti rinforzano la tua storia, ma tu devi continuare sempre avanti, devi sempre cercare di cose nuove, cercare a formare i giovani, perché i giovani ci sono in Italia, sono tantissimi giovani nuovi che si avvicinano al rugby, ma poi non si formano bene, non tiri fuori buoni giocatori, non si investe sugli allenatori e alla fine ti ritrovi con giocatori mediocri. Non la prima squadra, ormai è già la fine della catena, te ritrovi con l'under 18, l'under 20, giocatori che non possono giocare all'alto livello, e devono fare il dilettantismo sui loro club, che va benissimo, ma se tu vuoi giocare al tavolo con i grandi ti devi preparare come un grande. Certo. Con costanza, con serietà, con disciplina, e non fare sempre compromessi, campanilismo, l'amico di qua, l'amico di qua. Tu l'alto livello è senza pietà, la gente non lo capisce. L'alto livello è senza pietà, capito Bagnasco? Capito? Il professor Dominguez l'ha toccata piano in tuscia. No, Diego ha ragione, diciamo che qualche male del rugby italiano, sarebbe forse ingeneroso farlo ricadere tutto sull'ultima gestione. Il rugby naturalmente ha avuto una crescita soprattutto negli anni in cui Diego giocava, e adesso ci sono tanti problemi da affrontare. Diego, tra l'altro, dobbiamo dirlo, sta per diventare così, diciamo, di colpo l'allenatore della squadra europea più forte in assoluto, cioè il Tolone, che avrà adesso come allenatore Diego Dominguez, un compito di prestigio, un compito difficile, è stato scelto dal presidente del Tolone, ci sono bastati pochi minuti per capire che in lui c'era il fuoco giusto per allenare questa grandissima multinazionale. A Diego, che è tuttora il miglior marcatore italiano nella Coppa del Mondo, ha fatto 3 Coppe del Mondo e ha segnato 98 punti, ricorderei anche la meta che ha segnato 16 anni fa contro l'Inghilterra, in una partita che noi abbiamo perso male, ma che ha visto l'esordio di un certo ragazzo di 20 anni, Mauro Bergamasco, che è ancora qui e che potrebbe diventare il secondo uomo che ha giocato 5 Coppe del Mondo. Domani in panchina, se entra, riuscirà a fare questo. E a Diego chiedo un parere, eventualmente un augurio anche per questo suo ex compagno. Sì, con Mauro l'ho visto giocare, la prima volta che arrivato un raduno era in camera con me, solo ti dico questo, la sua prima partita stava contro l'Olanda, ha giocato con me anche che non è qualificazione, e le ho mandato un augurio personale, ho messo delle foto lui e me giocando con la nazionale, poi sai che a Mauro io l'ho portato l'ho portato a Parigi con me, alla mia squadra, a far parte dello Stade Français quando io giocavo lì, ha vinto uno scudetto nel 2003. Insomma, ho uno speciale amistà con lui da tantissimo tempo. E quello che ha fatto lui dopo tanti infortuni all'età che ha non è facile, infatti penso che c'è un altro al mondo, Brian Lima, e lui, quelli che faranno 5 Coppe del Mondo, è straordinario. Mi auguro che oggi giochi, mi auguro che la prossima partita giochi e anche la terza, perché Mauro Bergamasco delle terze linee in questo momento è quello che più in forma e sicuramente il più motivato. È sicuramente quello che darà il 140%, perché non c'è più cosa, non c'è cosa più brutta che finire male la tua carriera, e lui si ammazzerà per finirla bene. Io lo conosco, lui è un vincente e mi auguro che entri in campo. Io l'avrei voluto vedere dal primo minuto contro la Francia. Almeno va in panchina, prima partita non è andato neanche in panchina, oggi va in panchina. Penso che lo faranno giocare, si giocherà 20-30 minuti sicuramente. Spero che la prossima partita e l'ultima entri al primo minuto in campo. Diego, te lo chiedo così brutalmente: tu alleneresti la nazionale italiana? Adesso Giacomo prima ha ricordato il tuo prossimo impegno, che è un impegno di club di estremo livello. Alleneresti la nazionale italiana se te lo chiedessero? Ma lo farò, io sono sicuro che l'allenerò, ma al suo momento. Non bisogna bruciare le tappe adesso. Io ho preparato un percorso, prima devo dimostrare, non bisogna bruciare le tappe. Ovviamente mi piacerebbe e mi preparerò per farlo. Ho un percorso adesso a Tolone molto molto molto alto, ho messo veramente la vara altissima, ma io sono sempre stato così in tutta la mia carriera, ho sempre preso i rischi che realisti, non rischi irreali, un rischio reale, ma sempre un rischio grosso, e mi sto preparando per questo primo progetto nei prossimi 6-7 anni che ho tracciato per la mia vita, di farlo al 100%, di vincere. Grazie Diego, sentiamo su Sky, ci vediamo su Sky. Ciao. Grazie. Ciao. Grazie Diego Dominguez, capito Giacomo? Guarda, il professor Dominguez è questo. Io l'allenerò la nazionale italiana, se vogliamo, ma è ben giustificata, e vedremo se arriva Diego, prima o poi magari arriverà, potrebbe essere sarebbe il primo allenatore italiano, italo-argentino se vogliamo, da quando l'Italia è nel Sei Nazioni. Anche per questo io direi che prima o poi sarà un passo da fare, quello di non rivolgersi ad allenatori stranieri che dopo un paio di anni allargano fatalmente le braccia, sì. Mentre un italiano sa già a che cosa va incontro e può magari essere ancora più motivato e provare a studiare qualche mossa in più, proprio perché sa che ha. Sì, sa anche l'ambiente, grosso modo l'ambiente politico in cui si deve muovere, conosce la realtà italiana vivendola. Anche adesso mi ha colpito quando ha detto io l'allenerò, mi piacerebbe, ma io l'allenerò, mi sono preparato un percorso e il mio percorso mi porterà ad allenare la nazionale italiana senza se e senza ma. Speriamo di battere il Canada, caro Giacomo Bagnasco, speriamo di battere il Canada. Questo intanto vorrebbe dire che ha fatto molto bene al Tolone, che già è un compito molto difficile. Certo. Carlo, per ultima cosa, se me lo permetti, sì. Vorrei ricordare una persona, un grande giornalista, Remo Musumeci, che seguiva la nazionale italiana anche negli anni 70, negli anni 80, quando non c'era tutta questa partecipazione, quando non era tanto conosciuta, ma l'aveva sempre seguita. Era un grande giornalista che ha coperto anche altri sport, che ci ha lasciato oggi. Hai fatto bene. Grazie Giacomo. Ci sentiamo nei prossimi giorni, naturalmente, con Giacomo Bagnasco. Luciano da Firenze, poi vi faccio sentire qualche voce che arriva da Aragon, dove si corre una corsa cruciale per la stagione del MotoGP. A proposito, nelle libere Lorenzo Stellare, ma dietro di lui c'è Valentino Rossi, prime libere di oggi ad Aragon. Luciano, Firenze, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti, a lei e a tutti. Senta, io volevo parlare, la trasmissione la sento spesso perché a quest'ora sono spesso in auto, sì, però non riesco a capire perché non dite le cose come stanno. Mm-hmm. Il problema della Juve è Allegri, perché la storia di Allegri, se l'andate a vedere, è una storia così: il primo anno arriva, fa la gloria, vince sulle squadre degli altri, quando deve costruire una squadra la distrugge. Lui ha i migliori giovani che sono in Europa, i migliori giovani che in questo momento sono in Europa l'ha lui. Domenica scorsa, quando ha giocato, non mi ricordo, si picchiavano addosso come bambini che fanno le prime cose di calcio, si venivano addosso fra di loro. Perché? Perché lui non sa cosa può fare con un uomo. Per fare l'allenatore oggi bisogna capire cos'è un uomo, perché i dottori fanno da te. Luciano, mi sembra un po' ingeneroso, secondo me, quello è il suo parere ed è giusto che lo abbia. Dire che adesso tutta la colpa è di Allegri e che Allegri è un allenatore sfigato mi sembra tanta roba, anche perché, ripeto, secondo me Massimiliano Allegri l'anno scorso ha fatto una stagione clamorosa da capolavoro e non era merito di Conte. Ha avuto una grande eredità da Conte e ha fatto il massimo possibile, ha fatto quello che Conte non era riuscito a fare, soprattutto in Europa. Adesso vediamo. Pier Augusto Stasi, buongiorno. Ciao Carlo, buon pomeriggio. Ciao, io ho 2 minuti per lasciarti disegnare il mondiale di ciclismo su strada che vivremo domenica. Guarda, è un mondiale apertissimo che sulla carta non si addice assolutamente alla caratteristica degli azzurri, ma proprio per questo potrebbe essere la nostra grande fortuna, perché per una volta non abbiamo l'obbligo, il dovere di dover far vedere la forza della squadra con la S maiuscola, come viene chiamata all'estero la nazionale italiana. Possiamo correre di rimessa e cercare di, per una volta, di speculare un pochino su quelle formazioni che hanno degli uomini, dei passisti veloci di rango, come la Germania, che schiererà un corridore come John Degenkolb, che sicuramente non andrà lontano dalla maglia iridata, come la nazionale spagnola, che potrà avere ancora una volta Alejandro Valverde tra i protagonisti, come l'Australia, che cercherà sicuramente di portare Simon Gerrans. Insomma, noi dobbiamo cercare di tutelare i nostri ragazzi. Abbiamo 3 ragazzi molto giovani che hanno 26 anni, che sono Elia Viviani, Giacomo Nizzolo e Diego Ulissi, e soprattutto un fuoriclasse che è capace di qualsiasi cosa come Vincenzo Nibali, che certo allo sprint ha ben poche chance, ma uno come lui può sempre inventarsi qualcosa, soprattutto nei chilometri finali. Benissimo, allora domenica ci sentiamo con il risultato di questo mondiale alla mano, mondiale che, come ci raccontava Pier Augusto Stagi, dovremo un po' giocare in contropiede. Grazie Pier Augusto. Ciao Carlo. Ciao, grazie a te e a tutti voi che ci avete seguito. Giorgio De Luca, il nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, Giovanni Melchiori in redazione. Ci sentiamo naturalmente per la domenica di Tutti Convocati con Giovanni Capuano, Pardo e tutti gli altri ospiti dalle 17 alle 19. Ma io vi lascio con una controcopertina oggi. Controcopertina sulla partitissima che vivremo domani sera, Napoli-Juventus. Attendiamo naturalmente che venga battuto questo calcio di punizione, piede sulla palla, Specci, parte il tiro, rete, Maradona ha segnato, magnifico calcio di punizione da parte della formazione napoletana. Prima di arrivare in Marchisio può scattare il contropiede della Juve, scoperta la difesa della Napoli, 3 contro 3, attacca Cavonesi, il pallone in verticale per Del Piero, Maldonado non ci arriva, Del Piero, il tocco, rete, il raddoppio della Juve, Del Piero. Ancora Lavezzi con la sua velocità, il tocco per Amsic, posizione regolare, parte opposta, Edinson, Cavani, il Matador, tripletta 3-0, questa è una serata che scriverà nel suo diario. Prova a girarsi, Llorente in area di rigore, serie di rimpalli, arriva ancora Tevez, poi Pogba! Terzo gol contro il Napoli, forse il più bello degli altri due, è un capolavoro di un fenomeno assoluto che al 29esimo porta la Juve in vantaggio, mamma mia! We'll be right back.